casa e non devo più stare lì a discutere con nessuno perché mi serve, perché non mi serve, mi serve adesso, mi serve dopo. Devo riparare una cosa, mi servono questi componenti, li ordino su internet, al cliente gli dico guarda ci vuole una settimana, basta, finisce tutto lì. Esatto, esatto, no, ci vuole, qua ci vuole un bel negozio fornito, ma non negozio, no, un capannone, perché se guardi la minuta, se guardi il tanto per rivendere c'è, tanto per rivendere c'è, perché se porti condensatori, porti trasformatori, porti di tutto quello che può essere una situazione di elettronica, lavori e vengono da tutta la Sardegna a comprare, perché se loro sanno e ti fai pubblicità che sei ben fornito, che sei ben fornito, si va, e logicamente bisogna fare la furbata di aprirlo al centro Sardegna, in modo che sia un punto di riferimento per tutti, un punto di riferimento per tutti. E quindi Gianni? Prima c'era diversi, c'era Melchiori, c'era Grassi, c'era Fusaro, la GBC che era fornito lo stesso, ma adesso vai alla GBC, che non per sé te lo posso ordinare, fa una settimana arriva, vai lì, dopo una settimana non è arrivato, poi ritorno dopo un'altra settimana, non è arrivato ancora, alla fine ti incavo, dice ascolta, stai prendendo in giro. E l'altro giorno ho detto facciamo una cosa, lo prendo da internet e faccio prima, io te faccio, ma da internet se non ti danno garanzia, no, la garanzia me la danno anche da internet, cioè già che sono io, sono sempre trovare un magazzino, come ti entri, manco un magazzino si tiene così, il magazzino nostro era tutto ben ordinato, tutto sugli scaffali, tutto catalogato, in chi è un casino. Ma hai recuperato una bomba e savutria, detto quanto è disordinato, perché qua è uno schifo quel negozio, è uno schifo, che magari ce le ha le cose, che magari ce le ha, non sa dove cercarle perché è un casino, lì è scoppiata una bomba assurda, quello anche i tutti secondo me. No, però non ce la fa più, prima c'era un altro ragazzo antipatico che fosse, perché meno antipatico anche quello che c'era, poi l'ha mandato via e da quando l'ha mandato via non ce la fa più a mettere in ordine. Cazzo, ma che era antipatico massimo? Sì, non ha più gana nel manco e non c'è neanche la testa più lì. Va bene, li prendi Antonio. No, non era simpatico, faceva quella faccia di culo quando gli chiedevi la roba, ma qua, una cosa proprio, un'antipatia unica, per me era antipatico, boh, non lo so, poi può darsi per gli altri no. Sì, forse per te no, Massimo, era un amicone Massimo, no, davvero, non è così, magari l'avrei trovato un giorno che c'era una torta. Boh, adesso dove lavora quello? Adesso sta facendo dei lavori a conto suo, però Massimo davvero, guarda, davvero, credimi, non ce n'è, meglio di Antonello di Fusaro, e comunque con Antonello siamo in buoni rapporti, però con Massimo sono andato anche al suo matrimonio, scusate un po'. Oh, no, vabbè, a me mi ha dato quell'impressione, poi forse che mi sbagli, a prima chito gli avevo fatto una domanda, mi aveva risposto con un'aria proprio di prosopopea, di gozo, con questa faccia di culo che ha fatto, scusando la frase, però è così, non c'è altro termine, mi ha risposto in un modo strano, capito? Vabbè, comunque, Torino non ce la fa manca a parlare, boh, è proprio giù. Vabbè, Torino è vecchio, sono 70 anni, ne ho già 52 io, e lui ne aveva almeno 20 più di me. Quando io ho iniziato che lavoravo per la Midland, alla Seatronic, Torino aveva 45 anni, io ne avevo 20. Adesso fatelo conto. Antonio, scusa. Sì, prego, avanti. È possibile riparare un 747? Li fai quelli? È possibile riparare tutto. Allora, il discorso è questo. Nessuno, quando ti dicono che non è possibile ripararlo, ti stanno dicendo una stronzata, perché è tutto possibile, è tutto riparabile. Qualsiasi apparecchiatura elettronica si può riparare tutto, perché se tu prendi e sostituisci tutti i componenti, l'apparecchiatura la ripari. Il problema è ripetibilità dei componenti. mezzi, costo dei componenti e alla fin fine quanto ci guadagna chi lo ripara. È positivo, no vabbè, se ne vale la pena, altrimenti lo si lascia. Considera che un amplificatore di quelli lo paghi 60 euro, cioè non lo paghi nuovo 60 euro, ma magari lo prendi usato 60 euro, dopo una settimana ti fa lo stesso problema. Però se magari ne spendo 60 e so che è stato rifatto a nuovo, posso andare tranquillo. Questo è il discorso che faccio io. No, che costa di più, Gabi, sto sbagliando, se costa solo 95. Affidarlo a un tecnico, farlo controllare, farlo valutare, e valutare in realtà che cosa è successa. Allora, se il problema è sul finale, il finale si sa che ormai l'italiano non c'è più niente, è tutta roba cinese che viene da altre parti del mondo, quindi sei costretto a ordinare quel finale e poi chissà se va, se non va, o qui, lì e là. Però molte volte si ha qualcosa di recupero, che si riesce ad andare dentro il limite, oppure si riesce a sostituire quell'integrato, quel FET, quel MOSFET, con altri componenti che comunque in linea di massima riescono ad allinearsi su quella figura lì. E perciò devo riparare, però qua non ce ne fanno, capito? Mi dispiace tenerlo fermo, non lo voglio tenere fermo, ma tu saresti disposto a ripararlo? Guarda, mi hai fatto una domanda da 100 milioni di dollari. Gavi, quello c'ha il finale a MOSFET, ma deve essere una fesseria, perché a volte dai watt, a volte non li dà. Magari è qualche saldatura fredda, che c'è, tu. No, non è detto già, perché molte volte, allora, i finali MOSFET non sono come, cioè, ti spiego, non è detto che per forza è fredda o calda, cioè il discorso è che il finale potrebbe essere in perdita, quindi nel momento che riceve la tensione che tu gli dai, mentre per la portata che gli arriva la tensione, lui deve lavorare, riesce a partire, poi si in sassone si chiama gasotto, capito? Perché? Perché lui non è in perdita o in certo qual modo ha un problema, magari potrebbe essere anche, come dici tu, un problema prima dello stadio finale, quindi prima del finale, magari qualche condensatore, qualche cosa, però non è mai detto. Quando succede così sicuramente il finale è in perdita e quindi si inizia a vedere l'assorbimento di tensione sull'alimentatore, che prima magari ti assorbiva 5 e se ne assorbe 7. No, questa cosa non lo fa, a volte va in trasmissione, a volte no, il relay funziona e niente, non ho capito cosa può avere questo amplificatorino. E tu da cosa hai stabilito che il relay funziona? Perché fa lo scatto. Scatta, fa stack, quando schiaccia la portante fa scatta, sempre stack, aggancia, capito? E poi quando vado in banda laterale, fa le stesse differenze di quando funzionava. E in assorbimento quando lo spengo, cioè se rimane, non va ancora in tensione, si spegne e basta, mentre quando hai i finali che sono partiti, quando ha il finale che è partito, anche da spento continua a subire corrente. Ho capito, no, mi è venuto in mente un aneddoto di un mio professore di elettronica che diceva sempre del relì, no? Che diceva, come fai tu a dire che lui si eccita? Perché senti un rumore? E lui mi diceva sempre, perché quando senti uno schiaffo senti anche il calore a faccia. Diversamente. Non ho capito. No, non hai capito. Io mi dicevo diversamente. Ti spiego, lui diceva così, no? Quando senti uno schiaffo non è che lo senti il calore a faccia, perché il relè si può eccitare, tu lo senti che si eccita, magari non lo chiude però il contatto. Ma infatti io, bisogna controllarlo, ma tu lo aggiusti sì o no? Io aggiusto tutto quello che esiste in elettronica, però bisogna vedere tu quanto tempo hai di margine. Ma il mio conto non l'hai aggiustato? Oh, ancora devono lavorare tra 70 anni. No, il mio flauto non l'hai aggiustato. Cosa stai dicendo tu? Hai capito? Fine fasi. Aspetta. Ho detto che il mio flauto non l'hai aggiustato. No, perché io i flauti li lascio alle signore. Io mi occupo di piferi. Mannaggia. Ciao Davino. Ciao Tino, buonasera. Io non saluto più a Tino, non mi ha salutato a me. Ciao Gianni, bellissimo. Ciao Tino. Oh, via. Vabbè, dai. E uno snow, uno snow, dammi una risposta sicura, allora cambio di sì o no. Cosa? Cosa già? No, ho detto che uno snow non è né sì né no. Dammi, ho detto, dammi una risposta sicura, cammino, così almeno sa se portartelo o no. No, no, no, già, no, lascia perdere. Cappa. Vuol dire che ce lo prendiamo nuovo. E vuol dire che ce lo prendiamo nuovo. Tino mi ha spedito la radio Bianconi, c'ho la radio in spedizione da Bianconi, me l'ha fatto quando la sta restituendo, ed è portato un'occhio della testa, però è tornata nuova. Ah, l'importante è che poi alla fine hai raggiunto il tuo obiettivo. Sì, me l'ha fatta, addirittura l'ha fatta in 10 giorni. In 10 giorni ha fatto la radio, mi ha contattato tramite mail, tramite le... me l'ha tutta quanta bella riallineata, fatta, ha detto guardi questa radio è tornata nuova. E vabbè, bisogna mandare fuori, intanto è un casino. Oh Gavi, ma come funziona per il pagamento? Il bonifico li devi fare? Sì, ho bonifico con te. Un bonifico con tutti, capito? Però una persona seria. Dopo che ti arriva la radio, se no non te l'avrebbe spedita così, se si fida. No, tu, lui ti aggiusta la radio, e prima della spedizione fai il bonifico, e tu gli ti manda la radio. Ah, ecco, capito. No, perché dico, affidarsi così a mandarla senza pagare, non penso che sia nessuno. Vabbè, interessante che te l'abbia messa a posto bene, capi? E poi se non la vedi, te la tieni tu e te la tieni, visto che adesso è tutta quanto allineata, cosa te la vedi a fare? Ma la radio l'ho preso la mia? No, il 737, l'ICOM. Ricordi che te l'avevo detto. L'ICOM, l'IC737, l'HF. No, questa qua è la tua, scusami adesso. Ah, infatti, però, se non l'ho bravo. Va bene. Ai. Aspetta, mi aspetta. Quello è Gianni, mica, sta sempre mettendo la portante. Eccomi, sono qua. Quella da 48 sei? Sì, con la 45. Quella da 45, sì, tira su. Con l'altro ero con l'HR5005, questo è 450. Ho capito, tira su. Ancora? Tira su, che cazzo avevi più basso di prima? Cacchio, l'altro aveva 750 watt. Cazzo eri 9,25, con l'altro qua c'è 9,10. Ma l'altro ci avevo il Galaxy 1000 attaccato anche. Oh, ma la Zucchi, allora vado a spolverare il 2001 alla cantina. Sì. Un bel apparecchio, perché lo devo spedire a me? No, quello presto non è prima. No, è spedito, sì, no, questo non è stato, ma è spedito. Questo è quello che abbiamo preso all'Alghero, ti ricordi? Sì. Ce l'ha spento completamente, non accendeva più. Ci ho messo a mano stasera, sono reato i componenti 60 mesi fa. Vabbè, ma adesso va bene. Sì, infatti adesso lo faccio subito fuori, quando vado di coglioni. No, mi tengo il 140 io, che è lì, che mi sta guardando. Va bene, quello. No, questo è troppo complicato per me. Lasciami lì. Il 140 funziona anche con l'alimentatore del cesso. Sì, ma già va bene. No, questo è un problema all'antenna, credo. Stavo parlando giusto appunto con una persona che mi ha dato un, anzi adesso ti mando anche una foto, tu se lo conosci poi mi dici come funziona, te la mando adesso questa foto, Ma se conosco chi, la persona o la foto? La foto che ti sto mandando adesso, guarda questo attrezzo che mi hanno dato. Che ti hanno dato? Bello. Andava, dammi il tempo di salire su, perché qua giù non riceve. Vabbè, tanto sto trovando, aspetta. Bene, già, riprendi. Ehi, Davi, bello 737, Ricco, sono andato a guardarlo, bello, veramente bello, un po' complicato mi sembra, ma già è bello. No, già, no, è tranquillo, è più semplice di questo qua che sto usando io, molto più semplice. L'unica cosa che mi frega è che, ti ripeto, vabbè, il danno un attimino a farlo, il danno un attimo a farlo, però adesso che abbiamo la, diciamo, la malizia, lo teniamo bene. Intanto quello lo tengo solo in ricezione, non lo metto, non trasmetto con quello lì solo in ricezione, perché di trasmettere con quello lì il 27 non va bene, non è forte, quello va bene, manda laterale, l'HF, il 40, 80 metri, quello va bene, però in ricezione è assurdo, in ricezione è 10, è zitto, sembra un hi-fi già. La macchina sembra un hi-fi. Buonasera. Magari il 27 perché non gli ha messo un microfono adeguato, magari con un microfono tipo invece 60, invece 80 sarebbe andato bene. Avanti, cla. Sono andato per salutarvi, mi stavo ascoltando, ho sentito al mitico Antonio Reserva. Porca, per me per quello è cambiato il tempo. Vabbè. Quindi vi saluto, ciao Gavino, buonasera, poi chi c'era? Tino, tu, Antonio Reserva, ciao Reserva, come stai? Ciao amico mio, ti abbraccio, un abbraccio grande, sto bene, e tu? Sì, un bacio anche alla cresta, io cosa con la chiesa? Mi sembra il coso, la buona anima di Guido, gli fa ridava l'orgoglio, non mi ricordo adesso. Vabbè, c'era sempre il cane che abbaiava. Ciao a te. Bene, a te. Grazie a Dio, bene, dai. Non mi posso lamentare, un po' di acciacchi, quando sei qui, io sono sempre impegnato. So, vai e vieni a Porottola, c'è la mia madre, che stiamo facendo i turni, purtroppo, e quindi sono incasinato, però in linea di massima già sto bene, dai. Va bene. Domanda a Gavino, mi stai su quella radio? Qui il club, come? Buonasera, spedita, sì, spedita, dovrebbe arrivare domani, l'ha fatta. Sì, l'ha fatta. Ma dico, era una fesseria? I finali, l'ha cambiati tutti e due, del resto era perfetta, metto... La radio era perfetta, mai smanettata, queste cose qua, e ha avuto un ritorno neanche della radio, diciamo che è stata l'alimentazione a farli partire. Sì, come avevamo già visto, non è un rientro di RF, è una tensione sull'alimentazione, evidentemente ha sfiammato anche le parte finale. No, io te l'ho detto, la prova che ho fatto la radio perfetta in tutto e per tutto, non nessun problema, ricezione ottima, corrispondeva a tutto, il problema è che c'era il problema della potenza. Vabbè, dai, non è un grande danno, i finali si possono bruciare, ne avevamo bruciato dei finali. Vabbè, meglio così, dai, poi quando ti arriva facciamo qualche prova. Bene, Meda, il cambio, quindi nuovamente io lo faccio, scusate, Antonio Reserva, vi saluto, ciao Tino, Gianni, Gavino e chiunque ci sia su 10, MR Falso in QRX. Avanti, Anto, quando vuoi, andiamo a sera adesso, no? Mi sembra che sei il primo che sei venuto qua a fare il pianto d'antenna, quindi... Quando vuoi che sei in giro passa, mi fa piacere. Sì, mi fa piacere. Mi ha fatto... fatto piacere sentirti, mi fa piacere venire a trovarti, ti chiamerò per la trovarti, hai ragione, sì, i finali li abbiamo cambiato tutti, quando costavano 4,50 però. Abbiamo iniziato a avere questo cacchio di radio, purtroppo a me è successo così come è successo a Gavino, però un rientro di RF molto molto forte, causato da un temporale, mi aveva bruciato i finali del Milone, dell'FT 1000D, quindi è una cosa lì, c'è stato una cosettina da niente, che però purtroppo quando è così la radio ne risente. Vabbè, niente di che, dai Gavi, a futtidini, già va bene, l'importante è la radio torna a casa e te la colleghi, te la usi e te la goti. Ti rifaccio il cambio, un abbraccio grande, tanto quando vuoi o c'è bisogno di dirtelo, mi faccio a prendere a Giottino e salite. Dai, vi saluto tutti, buon fine domenica, eccetera, eccetera. Il cambio per te, Gavino, e fai girare. Ciao, ciao a tutti. Mia, ciao, Cla. Ciao, Cla, sì, come è arrivato, faccio uno squillo, magari scendi e lo vedi. E poi facciamo delle prove. E dai, buon fine domenica anche a te, passatela bene. E ci sentiamo. L'altro giorno ho visto le chiamate e non sai, mi si è spaccato il telefono. Mi si è spaccato il telefono, a me in diretta a te mi faccio il telefono in terra, maledetto. Ma avevo il telefono con lo schermo infasciato, me l'ha cambiato ieri con lo schermo. E va bene. Riprenditi io per i saluti a Claudio. Ehi, andare, ciao qua, ciao, già ci sentiamo. Sì, quando ne voglia Antonio ci facciamo una scappata, così almeno mi avvicino anch'io. Vabbè, Gianni, avanti. Ciao Claudio, Vocore X, se vuoi entrare siamo qua. Niente, vabbè Gavi, adesso te lo godi, dai, te lo godi, almeno è un bel apparecchio, sono andato a vederlo, non lo conoscevo. Scusa già, mi ha fatto ridere Gavi. A cortese o meno, io a cortese da te da Carici ce n'è andato un amico da qua e uscendo c'è Paolo Cancello, ha detto che gli si è abbagliata la vita anche il sorruglio. E lui dove era, però? E cos'è? Il rosso liquido è un casino. Quando ho dato il messaggio, quando ho visto il telefono, Claudio, agguanto il telefono, mi va il telefono in terra, lo schermo, porca miseria, sono stato male. Oia, quindi ha avuto un incontro ravvicinato di certo tipo, e a giudizio qui si andava, vivo, con quello ci vuole cosa, ci vuole spettatino buono. Oi! No, io le sto dando delle, come mi hai detto tu, no? Piacevole, sì, lo bevi tranquillamente, mangiando. E lui è venuto a trovarmi, sai, due cosettine, due pasticcetti, due cose. Buono, che vedi? Buono, ce l'ha fatto anche 5-6 mesi da zitti. Beh, tardi e caro, andare, dai, c'è una frase, è di oggi, no, questo era il mio ex collega. Tutto a posto, ha girato la macchina, già girando la macchina ha diventato un po' che imbranato, beh, ma già vai, perché si è spenta, no, la frizione no, non collaborava col piede. Poi era uscita di giù, ha detto, boom, arroccatosi, macchina non se ne sono fermate, niente, vuol dire non si è sbattuto, si non si è cotto al muro, prendo la macchina, scendo giù, e si è cotto la punta del cancello. Ecco, hai visto, ma ce la fai andare a casa? Sì, no, ma mi sono un po' abbagliata la vista, a giudizio. Aveva ragione l'amico mio, che bisogna dare lei a questo vino. Scusate che devo uscire, vai, devo accompagnare al piccolo a una festa. Ci sentiamo dopo se coincide, vai. Riprendete, ciao. Ciao Tino, ciao, Vocorix. Ehi Atino, ci sentiamo dopo. Io sono sul 12, dopo se vuoi entrare. Sono sul 12. Avanti Antonio per i saluti a Tino. Sì, ciao Tino, ci sentiamo domani al limite. niente, vi saluto anche io perché devo andare a spianare le pizze, vi abbraccio, vi bacio, sono a casa e quindi ne stanno approfittando di me. Anto, se ci riesci controllami con la caramella che è in macchina, ciao. Certamente sì, anche perché l'ho trovata in macchina e prima, dopo mesi, sono uscito a capire di chi era e poi te la controllerò. Figurati, ciao. Però sei sempre nel mio cuore, ciao. Sì, però non ciambi mai. Lo so, anche tu sei sempre nel mio cuore, però tu sei più vecchio e mi piace un po' di meno. Quando ero giovane mancavi anche il bacio, adesso non si parla per 60 anni e non ti piace più, vabbè, pazienza. Ciao, ti un abbraccio, vai Gianni. La nostalgia, sì, ti dà la verità. Cosa Gianni? Altrimenti scelta la nostalgia di Falcone. No, per carità, io la nostalgia di Falcone la compenso anche quando mi corico con mia moglie. Ah, e pensi a lui così? No, penso a mia moglie e a me. E penso, chissà quanto tempo riuscirò ancora a fare quello che sto facendo oggi. Sì, vabbè. I tempi passano, mi tu, poco di fa. Il tempo passa, ma cresce. Vabbè, puntini puntini. Vi abbraccio a tutti, un saluto generale a tutti, ciao Gavino. Che poi questo Gavino io l'avevo già sentito, ma non so chi è, vabbè, la prossima volta me lo dirà. Ciao a tutti, ciao Gavino, ciao Claudio, ciao Gianni, Natalino sicuramente sta ascoltando, vi abbraccio a tutti. Ciao, ricordati sempre Carpe Diem. Sì, cogli l'affanculo, quello lì era, sì. Ciao, avanti, capito. Mia, ciao Antu, la notte è sempre meglio dormire sotto l'albero dei fichi, in mezzo all'albero dei fichi. Va bene, ciao, buona serata, riprendi qua per Antu. No, lì ti sbagli, mia moglie dice, è sempre meglio dormire sotto l'albero natale, perché lì ci sono le palle. Dai, e poi si va in discoteca. Comunque, Antu, se l'erba cresce, glielo gelo, la gelba taglia, quindi sta attento. Ciao, un bacione grande, un abbraccio grande. Quando vuoi, però, passi a prendere a Tino e salite già, io sono sempre a casa la mattina, ma hai scoperto, poi rientro subito. Non c'è problema, ciao, buona pizzata, buon tutto. Lo sai che io ti voglio bene, come un padre. Non ti voglio dire che sei vecchio, però quando ti ho conosciuto ero un bambino. Lo so, abbiamo combinato di ricordare di chiudere, comunque. C'è sempre tutto a tua disposizione, qua già lo sai. Mi ha chiesto anche Dio mio l'altro giorno. Ma tu non c'è più venuto Antonio, quello che ci ha fatto il pianto d'antenna. Ah, ho già detto, è un eremita, sta volando fuori, non c'è più venuto. Però vi penso sempre, Io un pensiero sempre ce l'ho sempre per voi. Ciao, vi abbraccio, ciao. Fate in maniera se lo fanno mangiano. Ciao, anche quando vuoi passa. Dai, riprendete. Infatti ho visto Gavì adesso per chiudere, ho visto che praticamente gli ultimi messaggi che ti ho mandato non sono stati visualizzati, che te ne caggi il telefono in terra, l'hai visualizzati dopo. No, mi sono guardato e mi sono andato a rifunditi. Ho preso un microfono, non so se mi stavi telefonando, e poi ho visto la chiamata persa e ho visto i messaggi. Come sono andato a prendere il telefono, ho visto Claudio, mi è riuscito il telefono, avevamo esecuto prima la Gadriana, poi se c'è una suocera pure, e se me ne è caduto in terra, e si è facciato un vero, ho guardato, vabbè, la sapigli. Lui. Vabbè, prendevi quello di Manuela, mi chiamavi, ce l'ho io uno di scorta, simile a quelli che ci abbiamo, simile a quello un po' più piccolo. Ti avresti messo la scheda e nel frattempo avresti usato quello, che problemi c'era. Ho capito, però come faccio? C'è anche la mamma o l'altro, però l'ho preso e l'ho. Era incasinato anche per le telefonate di lavoro, capito? Quindi sì, era un casino. Infatti mi è venuto un attimo di panico. Oh, yeah. Va bene. Dai, riprendi Gianni. noi siamo attaccati a questa attrezzo, al telefono. No, io proprio al telefono, a me proprio al telefono non è che me ne freghi nulla, eh. È che lo usi per lavoro, capito? Lo usi per lavoro e io il telefono poi lo uso per WhatsApp, con WhatsApp e per telefonare, io non so a mandare cose, a fare, non, quando devo fare roba c'ho il tablet, il computer, però non è che sono attaccato al telefono. Però quando ti si faccia lo tratti a travagliare un po' ti mette a disagio, capito? Beh, vabbè, adesso c'è di aggiustare in fretta, dai. Ci sono anche i cinesi che li aggiustano, se li fanno in 10 minuti li faserei tutto. Oh dai, che io mi allontano, vai. Sono già le 7, ho qualche cosettina da fare. Un abbraccio a tutti, grazie delle due chiacchiere, ci sentiamo al prossimo. Ciao Gavi, quando vuoi già lo sai. Ciao Gianni e chiunque sia in ascolto. A frappe, vai Gian. E io là, ciao Cla, ci sentiamo, vai. Stai bene. Avanti Gavi. Via, ciao Cla. Ci sentiamo. Come arriva ti faccio sapere. Vabbè, fatto l'MP4, non te l'hai iniziato già? No, me lo devono ancora dare, capi, capito, me lo devono dare e domani sicuramente me lo danno e poi lo faccio. Sì, se io, guarda, non è che lo conosco, non è, però, dai, l'ho aperto un po' di volte, quindi io ce l'avevo anche un po' di tempo fa quel microfono lì e... Lo so qual è, quello nero o quello grigio? Quello con la piatta, diciamo, dove ci sono tutte quante le... Dai, la piattina di sopra, grigia o nera? Perché quella del nero era diverso da quello grigio. Quello nero era stato fatto molto meglio. Io c'ho quello lì. Qua, non te lo so dire, perché me l'hanno venduto, me lo consegnano domani. Capito? Domani mattina me lo consegnano. Per cui non te lo so dire, so che avevi più 4, punto, non so altro. È positivo. Se è quello nero hai fatto 13, se è quello col coso nero con la piatta nera, la scritta e le scritte gialle, hai fatto 13, perché quello lì era quello buono, perché quello grigio era la sede un pochino economica. Sono uguali, però sono diversi e... proprio cambiano, cambia un po' di roba. Vabbè, se quello grigio sarà diverso il punteggio da fare. No, assolutamente no, è uguale, però mi cercavo anche sul forum di Roger K i discorsi di questi microfoni, proprio lo dicono che è diverso. Avanti, chi stava entrando? Sono Eugenio. Eugenio, buonasera. Buonasera. Il più 4, abbiamo la figura Gianni, nero e giallo, bello. Chissà che fino a fatto sarà venuto. Giusto è quello che sto dicendo oggi. Ah, non lo so, questo nero e grigio non l'ho mai visto io l'ho avuto sempre nero e giallo. Quindi nero e grigio non l'ho mai avuto, quindi non posso dire niente. L'MV più 4, Eugenio, l'ho dato a chi ho venduto l'apparato tuo, me l'ha pagato a parte naturalmente e l'ho dato insieme all'apparato, là. Mi ha dato qualcosa in più e gliel'ho dato, capito? Mi ha detto se me lo dai, vabbè, ti do anche quello, là. Dopo me lo comprerò, capito? Comunque non lo so, non ti so dire nulla, dammi il merito, perché questa è una promessa che mi hanno fatto, domani me lo devono dare. Le promesse vanno mantenute. Domani come stanno andando, prendi lo smonti subito e gli fa la modifica prima di usarlo. Già. Tanto ci vuole due minuti a farla con la modifica lì. Ci vogliono 2 minuti. E poi Eugenio, ho finito di lavorare per oggi? Allora, oggi non stavo lavorando, oggi non è il turno. Sempre le domani. E basta, ogni domenica è un problema. Oggi ero a casa tranquillo. Anzi no, oggi ero in giro col camper. No, io già ero a casa tutto il giorno. A casa tutto il giorno oggi. Da domani si esce di nuovo in giro. No, oggi. Ieri sera e oggi. Non avevo una di sci oggi. Per carità. Per carità. Faccio un attimo di bianco, ragazzi, devo andare su. Cappa cappa, vai tranquillo, capi. Messo qua, messo passate tante cose in mano, di apparati, microfoni, che se ci penso mi sparo, da quanto ne ho venduto. Ne ho venduto un bel. Io sono arrivato, nel senso che volevo provare il cappa, ce l'ho e questo, ma lo sai, quanto me l'avevo chiesto. Sono anche in tanti, sono anche tanti da poco degli autisti e non l'ho dato. Il trovo mi voleva dare i soldi, un bel po' di soldi, più un presidente, e non l'ho dato. No, vabbè, se tu hai fatto lo sgarro mio, io l'ho dato uno nuovo, preso da una fiera, mai toccato, perché è passato poi il vano, questo qui aveva il negozio di questi apparecchi qua, e gli ho detto se c'è un certo qua, ho detto guarda non ne ho, poi se vado alla fiera e lo trovo uno, lo metto da parte, se ce ne trovo uno buono, là tutto controllato, infatti ho detto guarda perfetto, non c'è uno sgarro, niente, non c'è graffi, non c'è nulla, infatti l'avevo comprato 250 euro. In più vabbè, avevo comprato l'MC60, 170 euro, costava nuovo, nuovo di zecca. E andava benissimo. Era un po' scoriolato perché mi faceva abbassare, alzare il volume, questo e quell'altro, troppo alto, troppo basso. Alla fine un po' mi sono scoglionato e me l'ho venduto. E io ci stai mettendo la parata a finire, se uno troppo alto abbassa, l'altro troppo basso, alza. Se vuoi ascoltare così se no. E appunto, faccio male io. Poi ho venuto a 340, non uno. Poi io ne avrei detto, io ero innamorato del 140. Perché fa del 440, ma tutti parlavano del 440, 440. Poi mi hanno detto che il 440 presenta un difetto. Poi ti mi ha dato questo, mi ha detto vieni a vedere, lo devo fare, che questo è un carro armato, questo è nuovo, è perfetto, e difetti non è là. L'ho visto anche così, visto di fronte, il frontalino, diciamo, mi è piaciuto, mi ha detto di giù qui, con l'MC60 così c'è già allineato. Sì, in effetti quegli apparati vanno bene con le MC60. Io quelli che ho sentito vanno bene. Sono apparecchi che hanno i suoi anni, però se sono tenuti bene ti durano una vita, giocare a mani a vivo. Cioè, il 440 presenta quel difetto del coso. Si mettono i puntini nel monitor e presenta questo difetto qua, si fa tutto a punti. Tutti questi puntini non ti fanno leggere la frequenza, il canale, o sono solo puntini che non ti danno fastidio? No, si cancella tutto e si fa male i puntini solo, capito? Si vede, non si vede le frequenze alle nuove. Ah ok, quindi proprio un problema ai cristalli liquidi. Sì. Problema di VCO si chiama. Sì, il VCO appunto, non mi veniva la parola. Il VCO, ti parte quello e invece nel 140 non dovrebbe darti nessun difetto. Quindi saluto a mia consigliere che è entrato. Tanti saluti da Eugenio Cla. Grazie. C'è uno nuovo? Non lo so, non lo conosco. Poi va a farlo venire avanti. No, io con le matricole non ci faccio. Te ne dico conto, 140. Mi ha già bucato la bocca, buonasera. Ciao Cla, mi sentito, ho portato. Buonasera. Ho portato per causa mia, perché io voglio andare in lavoro, non ci rientro più. Buonasera, allora, a posto. No, ma anche io non sto facendo più radio come prima, ascolto, poi sono sempre in banda amatoriale, non... abbiamo cambiato un po' il sistema di lavorazione, però mi fa piacere ascoltarvi, quando c'è gente che posso entrare a salutare, saluto volentieri, figurati, prendi un conto, 440 è una bellissima radio, ce l'ho e... però è chiaro che con la mia esperienza cerco sempre di fare il massimo, perché come perdere tensioni, ti accorgi che se lo fa una volta e poi si stabilizza, già le tensioni stanno calando, quindi bisogna subito, immediatamente agire sul VCO e rimettere le tensioni giuste. Questo è un lavoro che chiaramente bisogna fare, chi lo sa fare, e lui va avanti così col tempo, mentre 140 è altro problema, non te lo dà. 140 e 70 sono per me le migliori radio in assoluto dell'era del 1998, 99 e 2000, tutto il resto è noia, per la 27 parlo sempre per la 27, vabbè, dai, vi saluto, un abbraccio anche a te Eugenio, è un piacere averti riascoltato, ti lascio con Gianni, io continuo a fare quello che sto facendo, ciao. Ehi a Giancarlo, mi ha fatto piacere, dai. Già ci sentiamo magari se continua le fluxime. Va bene, buona serata a Carlo. Ciao ciao. Claudio cioè, Carlo, G. Oh yeah. Ciao G, ciao e tutti noi sono uguali. L'importante è già abbiamo capito chi siamo. Vai Giannetto, poi l'hai ammesso finalmente. Magari domani non lo so di venire alla radio, a chi tu mi dici è troppo alto e troppo basso. Se non ti piace già mi canale, ma lo meno a tutti. Ma lasciamo perdere per carità. Però conoscendo a te che ti scoglioni subito è chiaro che alla fine hai fatto quello che hai deciso di fare, però hanno ribiato già maestro, non devo già ambare io. Dai, ci sentiamo, ciao Gianni, nuovamente a te il cambio, rimango in corrisci. Ciao Caccia, non ti leggo che me ne sono pentito poi, ma troppo tardi era. Vabbè, già si recupera. Cava cava. Ciao Claudio, ci sentiamo, dai, Monco Rix, avanti di nuovo. Ragazzi, una cosa la posso chiedere? Sto per cambiare discorso, come stai? Sto bene? Sì, un attimino Davi. Sì, grazie a Dio, sì. Sto riprendendo, sto uscendo anche col cane, sto camminando, il cane mi tira, quindi la muscolatura si sta sviluppando bene, dai. Ok, mi fa piacere, andale. E prendi Davi. Allora, come mi ascoltate col microfono originale? Va bene o com'è? È meglio delle MC80 o è meglio questo qua? Riesci a vedere? Questo è il microfono originale a Kenwood, il microfono Kenwood. Parla per appena più lontano. Io ti ascolto di lusso, sembra amplificato, per come la vedo io. A me piace la modulazione. Guarda, ok, adesso vediamo un po', guarda Gianni com'è questo microfono qua, questo è l'originale Kenwood. Non va bene Gavi, ha aumentato anche il segnale, deve essere un microfono miracoloso. Ma vai, no, quello originale da Palmo, classico Kenwood. E il MacGain è uguale all'MC80, cos'è meglio, questo qua o l'MC80? Dovrei fare una comparazione adesso per ricordarmelo bene, perché non mi ricordo esattamente, dovresti mettere l'MC80, adesso fammi sentire l'uno e l'altro. Chi è che sarà fatto? Guarda un pochino com'è, questo è l'MC80. Sono simili, non è che cambia molto, è vero? Ma non cambia tanto, non cambia tantissimo. Ora allora lasciamo questo a Palmo che mi viene anche meglio. Sì. Guarda, adesso ho fatto appena il MacGain alla radio e niente. Lo lasciamo così. Ah, senti io, mi sembra meglio questo. La voce più grossa ti fa. Di poco ma te la fa più grossa. Vabbè, comunque siamo tutti e due, diciamo, abbordabili benissimo. Sì, lasciamo questo qua che mi va meglio. Perché con l'altro. Devo stare in video, con questo ne posso sedere. Cappa. Io invece sono coricato, con il microfono da palmo, tranquillo e pacifico, al buio. Eia. Sì. Poi ho perso la cosa del palmare, il palmare è sempre bello, il palmare è sempre bello. Riprendi Eugenio. Sì, sto dicendo che sono due microfoni che si equivalgono. ce l'ho anch'io il microfono che è l'originale di questo apparato qua. E ti dirò che mi piace, infatti è qua tranquillo. Non ho mai provato con l'originale. Però si fa la tua voce. Va benissimo, va benissimo. Piazzala io, piazza il microfono originale, faccelo sentire. Ah, non ha cugana adesso di svitare niente. Io. Aspetta. Ma convinto dai. Ehi, che facciamo queste prove? Allora, a volte siamo tutti quanti, microfono da tavolo, ma magari gli originali escono meglio. E mai gli originali escono meglio, capito? Ho capito, ma ti volevo chiedere, ma la resistenza, sta lì il filo della resistenza o no? Non c'è bisogno? No, le lasci stare le resistenze, non le devi tagliare, devi solo fare il ponte e basta. Cappa, ho capito. No, per escludere mi stavo dicendo tagliarle magari il filo. No, vabbè, se non c'è bisogno non lo faccio. No, le lasci le resistenze e prendi e gli salvi due fili e basta. Cappa. Oh, sono qua, mi questo è l'originale. È OG. È originale. Perché? Come sta andando? Io ti sento meglio oggi. Ti sto dicendo che l'originale va bene, va benissimo. È come a te, come è successo a te. Già, cosa dici? È chiara la voce è proprio quella di Eugenio in persona. Io lo conosco in verticale, Eugenio. Cioè, come se sei in persona, Eugenio. Ha detto, però sarà sicuramente più bassa con modulazione. Leggermente sì. Vabbè, normale no, quello là è un microfono più fissato, questo no, questo è l'originale. Però vabbè, l'originale ricordiamoci una cosa, se non sarà più fissato ma le modulazioni le fa migliori, Sono più, diciamo, più chiare, dai. È più reale. Sì. Vabbè, non tutti, perché ho preso il 3009 col microfono normale, che deve essere anche precompresso quel microfono, perché mi dà la voce nasina, capito? Mi dicono tutti, è molto nasina, cupa, invece poi ho messo il microfono amplificato, ho detto, se questa qui sì che va bene, capito? Dipende sempre dagli apparecchi. Sì, poi questo è quello di affari. Come vengono allineati, secondo me, i microfoni. Io questo qua ho lasciato la stessa regolazione della radio, l'ho lasciato da com'era nel 1980 a com'è questo qua. Cioè, no, non ho toccato niente. E va bene. E facciamo girare un po' questo, quindi. Così siamo a posto. Il cane terrorizzato. Perché non è successo? A che umano? Sì, ogni tanto succede. Tutti e due sono due anime dannate. Oioia. Riprendi Eugenio, riprendi. Oia, sono qua. Perché? Cosa c'ha il cane? Grazie. No, è una razza un po' morbosa e vuole stare sempre con noi, cioè è assurdo, assurdo, vuole stare sempre con noi, sempre, non si vuole attaccare, tu lo lasci fuori, lui vuole entrare dentro, tu sei fuori e lui rimane fuori, è assurdo, ma ogni tanto viene, si mette la testa sotto le braccia per accarezzarlo, per farlo, lui, mamma mia. Anzi, invece il mio dog argentino è tutto barrato in faccia, subito cicatrici, è un casino. Se l'ha farrato così. Ma con un cinghiale, Baro. Ha sentito il cinghiale dietro il muro di casa, ha saltato un altro animale. Io non l'avevo mai richiusi, l'avrei in casa, ora. Dopo chiamare il veterinario, gli ha levato un pezzo di carne di cinghiale alla bocca. È cinghiale? No, penso che se ne sia scappato. Cane, guarda che il cinghiale è stato appena al cane. Sicuramente se tu il cinghiale ferito che è ferito d'arma da fuoco, oppure il cane te lo devasta, perché gli è visto che li aprono il cane. Però ragazzi, i ragazzi troppo a fare con un cane grosso, metti su e giù, Lugani arrivi, Lugani arrivi a Cudu, inizia a Garri, Sì, sicuramente è successo così qua, però me l'ha ridotto male, su quanto ci cattizzando in faccia, ma è uno dei sigari che uso per combattimenti, via. Sì, vabbè, perché magari lui con le zanne l'ha preso, ma non me non te l'ha aperto. Meno male non te l'ha aperto, magari il tuo cane l'ha preso, vabbè, il dogo argentino è massiccio qui, su Moccarita va, sicuramente è una strada che ti è sui carri. E ti sto dicendo che ne ha levato un pezzo di carne alla bocca. E allora quel cinghiale se n'è andato a morire. Io credo fosse, come a noi abbiamo detto, no, forse è gatto, si è fatto un qualche gatto. Abbiamo trovato il veterinario, ma quale gatto, ragazzi, guardate qua. Un cinghiale. E lo devo brucare pure il piatto. E cosa ne so? Cosa ne so? La prima volta che succede, non lo so. C'è sempre una prima volta, Luigi. C'è sempre una prima volta, la salva Romanco Biglia e figli di Biglia Ruggio, non è mezzo alle capole di questi animalacci. Ma sta cambiando tutto, e a lui arrivano sino al portone di casa, proprio di fronte, anche 9 cinghiali, uno dietro l'altro. Sì, c'è l'invasione. Però mi dispiace, capito, perché si è fatto male, sta messo in faccia, è un casino. Mi dispiace, il cane così mi dispiace. Ma è tranquillo, eh? Sì, lui è tranquillo, scontolando, proprio bambino, laggiù scontolando, giù c'è laggiù grimbaggio. Però mi è tranquillo. Se è tranquillo, allora non ti preoccupare. Il fatto è che quando il cane, quando si azzuffa e sta male, lui si deve preoccupare, però se il cane è tranquillo non ti mettere problemi a chi vuol dire che è una cosa che vuole avvalere. Quindi no, non ci sono problemi, io lo vedo il mio che prende, entra in mezzo ai rovi, in mezzo ai cespugli, e dici tranquillo, vuol dire che sta di bene, vuol dire che non si fa di male. A che caso si fa di male in te li cai. Insomma, per le logiche, a chi era buono, lungo male, il mio figlio è venuto a casa la faccia, compreso. Non è che aveva la faccia tutta gonfia. Beh, perché come lo apre, magari qualche infezione, l'importante è curarlo, però se lui è tranquillo non ti preoccupare, lui. Riprendi Gianni. Meno male che l'ha messo sotto, perché sotto il cinghiale lo prende alla pancia con le zanne e lo apre tutto. Anche nella caccia di un amico mio, a Gigi, che non è bravo a cinghiali, sono stato il cinghiale, questo cinghiale si è girato, l'ha messo una zanna sotto la pancia, era tutto aperto. Hanno cercato di portarlo al veterinario, l'hanno chiuso così alla bene e meglio, tutte le budella fuori cioè, che c'aveva, ma ha cominciato a barcollare, questo cane non camminava più bene, barcollava, alla fine l'hanno abbattuto perché se lo faceva tenerlo. E poi mi spiace la poverina. Poi quando la giunto, ma giunto rimane in capo, no, ha detto no. Ti ripeto, credo fosse l'unghia di un gatto, invece poi abbiamo chiamato il veterinario perché adesso qua ci vogliono punti, invece non abbiamo messo punti. Il gatto ha controllato in bocca e ha cavato un pezzo di gatti da sotto le gengive, nelle guance, là, in mezzo tra i denti e le guance, un pezzo di gatti di cinghiale. Magari mi ha fatto, gatta, ma dai nunca. E manco male che se ne ha fatta cavare a garri la bocca. Lui manco si va di contro, quando arriva il veterinario come sta a fare un macco guai. Tu pensa che per togliere il forassacco, si ha tolto due museruoli, il fornese, si ha tolto due museruoli. E poi è andata Manuela, è andata una compagna a prendere il recinto, l'ha pigliato a Rivone e l'ha buttato in veranda e l'ha fatto la puntura. Ma vi bene, imbecille. No, il mio è assurdo, fa delle cose proprio che non capisci cosa, che non capisci da dove tocca pure. Ha rotto due museruole, ma se permette il curio in gli occhi, un giorno gli è entrata una spina di quelle piante che fanno bene per le punte delle zanzare. E gli ha fatto l'occhio rosa, aveva l'occhio, la cornea, mi sembra che gli ha lesionato. E mi ha detto che il collirio in pasta da mettere. Oh, sembrava, mettendogli, ed era un po' piccolo, quindi non era grande come adesso. Per mettergli questo collirio, sembrava nel toro, in quel toro dalle giostre, quello che si butta a terra, mi alzava a terra. Ok, perché poi sono un direttivo a farci fare queste cose. E anche a me per il suo attacco l'ha dovuto addormentare. Non c'era voce eterna. Alla buia si montava. Faceva per i ricchi al veterinario. Ma lui mi è arrivato, boh, allora non ho qua, è meglio addormentarlo. Gliene spacca il braccio, perché poi devono fare in precisione, perché se c'era nel naso è un casino, nell'orecchio tanto quanto, ma il padrone del teatro sta ferma, però io anche nell'orecchio non siamo riusciti a tenerlo, e l'ha dovuto sedare perché era una cosa incontrollabile. E anche a lui l'ha dovuto sedare perché ce l'aveva nel naso e per toglierlo ha dovuto entrare con la pinza lunga e con la pila davanti. Era tolta fuori e ci aveva il forasacco, istalutiva e toglieva sangue, capito? Quando toglie sangue il forasacco, maledizione, cioè quando il forasacco fa togliere sangue sia da lui che dal naso è già in una cosa critica, almeno così mi ha detto il veterinario. Adesso c'è la bambina che sta andando un po' più informati, lui davanti alla bambina che lo aspettano che viene di opere. È fuori di casa. Ok, non devo prendere la mano. No, non si permette. Aspetta che viene da un pezzo. Lui vuole prendere, vuole essere partecipe in tutto, sia lui che l'altro piccolino è ancora peggio. Ma l'altro così è un cuccioletto che c'è? È un cuccioletto di 40 kg. Quello me l'avevano abbandonato, me l'avevano buttato dentro la recinzione. L'avevano trovato vicino a dove c'era la lavanderia, qua a Manuela. E l'avevano trovato a testa bassa, con la lingua aperta. Ce l'avevano abbandonato. Quello è un campione, è un incrocio di pappere tedesco. Ha 2 anni ed è un carro armato, è quel cane. Che bastardi che sono. Meno male ha trovato la persona che ce l'ha tenuto. Sono bastardi. Quando mai devono fare certe cose? Boh, io non lo comprendo. Una volta mi ricordo quando facevo servizio ambulanza lì via Pirandello. Eravamo in sede e vediamo questa macchina che si è fermata. Le ha tolto questa busta e l'ha messa in terra. Noi siamo usciti correndo perché ce l'abbiamo immaginato. Siamo usciti correndo per prendere la targa e passo dal raso. E c'erano tutti i pastori tedeschi puri, tutti puri. E li abbiamo regalato, se l'ha preso uno una volontaria, uno un altro, se l'hanno presi tutti quanti. Ma tu dovevi vedere quando sono diventati grandi che razza di pastori tedeschi erano, belli, veramente belli, con abbassati dietro, proprio di quelli color rossicchio, belli, cazzo, proprio dei bei pastori tedeschi, non so perché li abbiamo abbandonati così. Perché sono una massa di miserabili, questo qua il veterinario, certo che c'è incrocio tra pastore tedesco e pastore belga. E sai che la vera razza del pastore tedesco non rimane impennato, quello l'hanno fatto genetica, l'hanno fatto molto dopo per... È stato modificato. Stavo parlando. Perché il vero pastore tedesco rimane dritto, rimane impennato. Infatti è molto delicato, le viene subito la malattia delle zampe di dietro, il pastore tedesco. Vabbè signori, stanno venendo gente a casa, purtroppo vi devo lasciare. Ci sentiamo, fate piacere, ciao. Ciao Luigi, si chiama l'esplosione dell'anca. Ciao Luigi, sì è vero, il pastore tedesco puro non è... è una cosa che hanno fatto geneticamente, è vero, come arruinarli, per rovinarli. Va bene Luigi, ti lasciamo andare, ciao, buona serata, buon tutto. Gianni, ti risaluti Eugenio, che deve lasciarci. Non lasciarci, che hai figlio. Ciao Eugenio, ciao, ci sentiamo. Avanti Antonio. Buonasera a tutti, buonasera, Antonio da questa parte. Ciao Antonio, buonasera, Gavino al mare. mezzo al QRM, un pochino pochino più in su, però ti sento. Ah, va bene, là, già va bene, là. Meglio di niente. Eia, vai Gianni. Io già ti ascolto bene, non c'è problema per me. Kappa. Vabbè, comunque, tu, ti ascoltavo poco fa, però stavo parlando di Eugenio, tu forse non lo sentivi. No, non lo sento Eugenio, no. E ti ho detto che sto parlando, stavo parlando, e tu break. Kappa, forse no, pensavo che non c'era nessuno, no, non lo sentono. Devo fare qualcosa anche per